versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori delle 24, un saluto da Oscar Giannino, qui dagli studi di Roma per una volta di Radio 24 in questo mercoledì 16 aprile e vado immediatamente al tema del giorno per vedere se volete chiamarci all'800240024. Oggi parliamo delle condizioni in cui si trovano molti cittadini, grandi città italiane e piccole città italiane, che magari si trovano a dover pagare, come farà ci dirà con le sue parole l'ospite di oggi, delle multe più o meno giuste, nel suo caso è anche ingiusta, ci spiegherà perché, sul tema della tassa dei rifiuti, della raccolta differenziata e così via. E questo avviene mentre in contemporanea, in molti di questi comuni, le sanzioni che i comuni hanno contestato e irrogato nei confronti dei partiti politici per le affissioni abusive, in buona sostanza si risolvono in nulla. Ora spiegherò il caso particolare della grande città italiana Milano, in cui questo è l'esito molto probabile, e la domanda che vi facciamo è se condividerete quello che ci spiegherà il nostro ospite oggi, cioè questa sensazione di particolare ingiustizia, oltretutto nel suo caso la sanzione è molto contestabile, rispetto al fatto che ai partiti poi sia buona tutto quando nelle campagne elettorali fanno affissioni dovunque. Ed è la stessa politica naturalmente ad usare purtroppo due pesi e due misure. Ecco, che cosa pensate di questa particolare asimmetria? Il caso di Milano, da cui partiamo, è un caso abbastanza eclatante, perché nella cosiddetta capitale morale, pochi giorni fa, il 10 aprile, abbiamo appreso che c'è la seguente situazione. Ci sono state per le amministrative del 2011 oltre 5.000 verbali che sono stati formulati dalle autorità di polizia municipale per oltre 6 milioni di euro, quindi di sanzione, e tra i destinatari di queste contestazioni e di queste multe ci sono tantissimi ex consiglieri, nuovi assessori, vecchi assessori, ci sono entrambi coloro che erano candidati alla poltrona di sindaco a Milano, cioè sia la Tizia Moratti, uscente non riconfermata, che Giuliano Pisapia, che è l'attuale sindaco. Per Letizia Moratti ci sono contestazioni per 70.000 euro e per il sindaco Pisapia e la sua lista 480.000 euro di possibili sanzioni. Però che cosa avviene? Avviene che questi verbali vengono inoltrati, tantissimi tra gli oltre 500 candidati delle amministrative del 2011 li impugnano. Capita che un ex assessore si veda riconosciuto dal giudice di pace una fondamentale giustizia rispetto ad alcune delle contestazioni che lui fa al verbale che raccoglie. A questo punto la giunta a Palazzo Marino a Milano decide di reinviare tutte le contestazioni, cioè i verbali, ma espurgando quelli che il giudice di pace ha riconosciuto a questo ex assessore. Ma quello che conta è che così facendo si riparte da capo nell'iter, e quindi, come potete immaginare, siamo già al 2014, poiché il tempo di prescrizione è di 5 anni, con ogni probabilità il Comune di Milano, attraverso questo escamotage di procedura, per carità, legalissima, i 6 milioni ai partiti, ai candidati delle amministrative per le affissioni abusive in tutta la città non li vedrà mai, ma nel frattempo ovviamente è inflessibile nei confronti dei cittadini comuni, di noi tutti e degli abitanti di Milano. Ed ecco perché ci scrive qualche giorno fa, dopo la lettura di questa notizia che è del 10 aprile, un ascoltatore ci manda una lunga lettera che ripercorre gli argomenti che lui ha inoltrato al dirigente del Comune di Milano, che è incaricato, che presiede proprio al settore delle sanzioni in questo particolare settore. E la lettera mi ha così colpito, ci ha così colpito, che abbiamo deciso immediatamente di farne un caso, di farla spiegare da lui stesso ai nostri ascoltatori, per sapere come la pensate voi di fronte a uno Stato che è inflessibile quando si tratta di noi cittadini e quando si tratta della politica no. non lo è affatto, perché poi lo Stato è la politica pro tempore che lo amministra, anche se lo Stato ricorda sempre, ama ricordare, molti di voi sono convinti che lo Stato siamo noi, e lo Stato in realtà, secondo me, come insegna Gaetano Mosca, Alfredo Pareto, Max Weber, e delle amministrazioni che pro tempore lo guidano, sono quelli gli interessi al suo vertice, niente affatto quelli di noi tutti rappresentati, come illusoriamente siamo convinti di dire e affermare, ripetendo la famosa versione per la quale lo Stato siamo noi, ma io credo che soprattutto lo Stato siano loro. Allora, l'ospite cittadino e contribuente sanzionato si chiama Luca Lucchesini, è un dirigente d'azienda ed è un cittadino arrabbiato. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buongiorno Giannino, grazie per l'invito. Allora, in questa lettera alla dottoressa Della Valle, si chiama così, lei innanzitutto spiega la sanzione di cui è stato colpito. Partiamo di qua, che cosa le hanno contestato e quanto dovrebbe pagare e perché? Sì, la cosa è piccola, però come diceva lei, diciamo, colpisce proprio il principio della simmetria. Allora, tutto inizia esattamente 4 anni fa, nel maggio 2010, in cui mi vedo recapitare nella cassetta delle lettere una multa per aver depositato indebitamente rifiuti domestici nel cestino della raccolta stradale. E come prova sul verbale venivano citati riscontri cartacei. Al che uno non sa che cosa siano questi riscontri cartacei, corrispondenza, non si sa. C'era solo scritta questa non meglio specificata causa, con ovviamente l'ingiunzione a pagare. E tra l'altro il verbale specificava esattamente il cestino e l'ora, e questa era la cosa abbastanza assurda, perché questo cestino era esatta a quasi 1 chilometro da dove abito, quindi uno dice: ma perché dovrei sobbarcarmi, diciamo, il trasporto della spazzatura per andare in cerca di multe? Comunque, beh, io seguivo la normale procedura di ricorso, inviavo una raccomandata all'ufficio della polizia comunale e sostanzialmente protestavo la mia innocenza, perché non avevo commesso il fatto, né mi risultava l'avessero commesso familiari o la collaboratrice domestica. Poi dicevo, soprattutto non mi era stata fornita nessuna prova che fossi io, non so, il riscontro cartaceo, una foto, siamo nell'era dei telefonini, cioè fate una foto alla spazzatura, me la mandate, paga, va bene, no? E oltretutto poi non ero, mi giungeva nuovo che ci fosse una specie di responsabilità oggettiva del rifiuto, per cui nel momento in cui uno se ne libera viene ritrovato, ne rimane responsabile sempre e comunque. Cosa succede? Non ricevo risposta a questa mia missiva per 4 anni, fino a quando appunto una settimana fa circa mi arriva scritta in un ottimo burocratese l'ingiunzione di pagamento, citando tutta una serie di articoli la cui giurisprudenza è di difficile reperimento, e ovviamente in maiuscolo grassetto ordine ingiunge, fatto sta, mi si dice: guarda, sono scaduti i termini, abbiamo fatto le verifiche del caso, abbiamo anche letto i suoi scritti, lei è colpevole, paghi 100 euro più gli oneri accessori. Quindi stiamo parlando, per carità, di una somma ancora esigua, sono 116 euro. E però la cosa, diciamo, il punto di giustizia a me non andava giù, per cui dico: vabbè, proviamo a fare ricorso, come lei diceva. Anche perché non è che le rispondano nel merito su quali sarebbero le prove dell'addebito, per così dire. No, non c'è assolutamente nessuna prova, e sì, per cui siamo in una situazione giuridica in cui io devo provare una cosa che non esiste, non avendo commesso il fatto. Naturalmente l'inversione dell'onere della prova, quando siamo alle contestazioni tributarie, è la regola aurea del nostro Stato. Ecco, esatto, e io, avendo nel frattempo ascoltato più di qualcuna delle sue trasmissioni, a questo punto ho iniziato a tremare, però dico: vabbè, proviamo a vedere se col giudice di pace vale la pena almeno provare una protesta e cercare di affermare in punto di diritto almeno l'infondatezza della cosa. Vabbè, insomma, mi informo sui siti internet del tribunale, e qui si scopre l'altra faccia della medaglia, perché la procedura è tutt'altro che lineare. Allora, pronti via, bisogna pagare 50 euro per istruire la pratica. Istruire la pratica vuol dire compilare in 6 copie il relativo modulo abbastanza corposo, e soprattutto alla fine di tutto questo, come se non bastasse, versare come cauzione esattamente il doppio dell'importo della sanzione. Poi tutto questo Scusi se rido. No, a questo punto, come ho scritto poi alla dottoressa Della Valle, come dire, la teoria dei giochi inizia a sopravanzare il desiderio di giustizia, per cui uno dice, vabbè, devo mettere lì più del triplo della sanzione, a fondo perduto, non so come va a finire, non so in che tempi, non so in che modi, la morale... È ovvio che, in termini comparati, il vantaggio di pagare intanto la sanzione, a prescindere dal fatto che non ci sia nessuna prova, è più vantaggioso che pagare tutta questa roba. Assolutamente, però la cosa, l'ho vista, come dire, la morale della faccenda è stata, pago perché appunto in termini comparati assolutamente vantaggioso, non sto zitto però, almeno la soddisfazione di togliere un sassolino dalla scarpa e protestare me la tolgo, da cui appunto questa missiva aperta che ho indirizzato al responsabile dirigente superiore dell'ufficio sanzioni del comune di Milano, la dottoressa Della Valle, da cui ad oggi ovviamente non ho ricevuto alcuna risposta, in cui espongo la situazione e chiedo a questo responsabile una posizione anche personale rispetto a quelle che sono i quattro punti secondo me fondamentali, al di là poi dei 116 euro che pagherò. Allora, sicuramente io sui quattro punti fondamentali la sospendo un secondo perché abbiamo i 60 secondi di informazione stradale e poi ricominciamo di qua e poi ci sono anche telefonate. Intanto adesso strade. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta agli studi di Roma di Radio 24. Stiamo parlando, grazie a questo cittadino che ci ha scritto, arrabbiato, Luca Lucchesini, perché gli è comminata una sanzione dal Comune di Milano per aver depositato rifiuti domestici in cestini invece urbani. Non c'è prova, lui risponde nel 2010, dopo 4 anni si vede arrivare una risposta che dice: guardi, lei comunque paghi questo. Lui dice: no, ma io perché devo pagare questi 116 euro, prova il giudice di pace e scopre che ne deve pagare, tra una cosa e l'altra, cauzioni, compilazioni, ricevute per l'inoltro e deposito cautelare, 3 volte praticamente quello che gli chiedono di pagare. Nel frattempo però dal Comune di Milano apprendiamo che i 6.400.000 euro per le sole sanzioni alle fusioni abusive delle amministrative del 2011, in parole povere, andranno in cavalleria. E capite che qui c'è una simmetria. Sentiamo come la pensano alcuni di voi che ci hanno chiamato. Daniele, che ci chiama da Roma. Prego, Daniele. Buonasera, dottor Giannino. Buonasera. No, Oscar Giannino e basta, ogni volta questa roba. Guardi, per me lei è dottore. No, non lo so. Valore legale del Daniele, prego, studio, prego. Ecco, quello è un altro po' di male. Se non è allora, dottore lei, per me, insomma. La sua esperienza. Comunque, io volevo ringraziarla perché posso finalmente segnalare una cosa da Roma che grida vendetta, al cui confronto la questione della... Di Luca Lucchesini e niente. Nulla. Allora, perché? Praticamente il caro sindaco Alemanno fece un'ordinanza che sì. Marino si è guardato bene dal cancellare, che si chiama per il decoro urbano. Sì. Ora, io le dico che ogni volantino che viene trovato, quindi io gestisco una piccola associazione e si occupa di danza, ti fanno 490 euro di multa cada volantino moltiplicabile all'infinito. Avete capito bene? Non 4,90, non 49. 490 volantino. Allora, hanno istituito una task force di vigili che fanno irruzione nelle scuole. Quindi praticamente io ho una quantità di cartelle che ormai non so più, cioè migliaia di euro, e ho saputo che invece tutte le affissioni elettorali che devastano Roma nei periodi elettorali con sovrapposizioni di 10, 100, 1000 cose che fanno cadere, insomma anche creando pericolo, loro se la sono sanata con una bella leggina. Allora, questo che cosa ha creato? Che tutto l'indotto delle tipografie, delle piccole associazioni, delle cose è stato ucciso, cioè Roma sta già morendo perché praticamente viene messa a sacco dai cinesi che comprano interi quartieri in contanti, quello non lo va a guardare nessuno, ma un povero maestro di danza che mette qualche volantino per fare associazionismo, aggregazione, i vigili vanno arrabbiati, ti cercano, entrano durante le lezioni e ti fanno 490 euro di multa ogni volantino, che per sua natura è volante, quindi questo io non so se una cosa del genere può essere considerata addirittura costituzionale, perché questa è una follia. Cioè, beh, certo, una l'abnormità sanzione... di 490 euro a volantino è un'abnormità rispetto ai costi di rimozione. Voglio dirlo proprio, io no, è chiaro che non sono per le affissioni selvagge, chiunque fa qualunque cosa, però il tema che ci solleva Daniele, 490 euro di sanzione a volantino a 4, dice semplicemente di una caccia bestiale, di una sete incolmmabile, viste le stati del debito, del deficit di Roma, che si esatto. Fa con questi mezzucci. Loro tanto le multe le mettono a bilancio prima, come hanno gli obiettivi preventivi. Capitolo, ha capito? Però... Grazie Daniele, aspetti che ci abbiamo altri ascoltatori. Andrea da Padova, prego Andrea. Buongiorno Giannino. Buongiorno. Senta, io sono seduto sulla sedia qua, ma mi divento pazzo a sentire ste robe qua, mi fanno incazzare su una questa su una è maniera... l'Italia, sa. Perché proprio lo Stato ti dà un esempio che fa, non so neanche come definirlo, perché siamo alle solite, questo mi fa imbestialire. Perché non viene sanzionato i 6 milioni il comune di Milano? Perché queste robe qua, queste ingiustizie che mi fanno incavolare, porca miseria, e siamo ancora alle solite, è una roba che mi fa schifo, porca miseria. E dopo se sono forti con i deboli e debolissimi con i forti, questo mi fa incazzare da morire. Grazie Andrea, perché soprattutto io rimarco che il caso di Luca, e qui addirittura siamo alla contestazione di una sanzione, sarà ridotta, ma è una questione di principio, a un chilometro da casa sua senza alcuna prova. E lui, quello, il suo difetto, per così dire, ma mi volete spiegare in base a che cosa? Risposta no, paga, non vuoi pagare? Paga il triplo per farci vedere, naturalmente a carico tuo, che non abbiamo ragione noi, che però non ti abbiamo prodotto alcuna prova. Non è l'entità della sanzione, è il principio che definisce l'equità di un consorzio civile e secondo me la legittimità etica della pretesa pubblica. Qui siamo in presenza di clamorose, devastanti, sistematiche violazioni del fondamento etico della pretesa pubblica nei confronti dei contribuenti. Sbaglierò, sono per punire chi trasgredisce, non per attribuire allo Stato il diritto di pretendere incassi senza prove e in maniera del tutto discrezionale, in cambio del fatto che se vuoi dimostrare il contrario devi pagare tre volte tanto. Questa mi sembra una cosa da regime autoritario fiscale. Andrea da Modena, qual è la sua esperienza? Sì, Oscar Giannino, buonasera. Buonasera. Io ho avuto una situazione analoga a quella del primo ascoltatore, insomma quello, l'ospite che avete avuto. Sì, Luca Lucchesi. Ovvero, io ero in Sardegna, andato a trovare amici. Cosa ho fatto? Niente, probabilmente devo aver gettato nella spazzatura di questi amici una ricevuta di un parcheggio della Sardegna, sempre di quel periodo, prima avevo fatto un giro così, sì. Al che la mia macchina era diventata riconoscibile. Si vede che questi amici hanno gettato la spazzatura in maniera errata, perché anche loro erano appena arrivati, diciamo, nella loro località di villeggiatura, ma non sede permanente, diciamo, della loro vita, per cui non conoscevano bene tutte le regole di divisione del pattume, ecco, diciamo così, domestico. E per ecco, questa ricevuta quanto le hanno chiesto? 500 euro. 500 euro? Allora, no, ma aspetti, la storia rocambolesca è questa, che alla fine io... mi vedo arrivare questa multa, chiamo questi amici, dico: ma scusate, ma quei 500 euro cos'è? Loro dicono: ma non lo so, come mai? Allora, siccome loro hanno i parenti lì nella zona, nella località, che dopo se volete dico anche che località è, si informano e dicono: no, per l'amor di Dio, mio zio è nel consiglio comunale, no, non possiamo far nulla, dobbiamo pagarla. Io dico: sì, ho capito, però insomma non sono proprio 50 euro, sono 500. Insomma decidiamo, paghiamo a metà la multa, va bene, paghiamo la multa, però io mi volevo togliere il sassolino dalla scarpa. Cerco in qualche modo di parlare col sindaco di questo paese, lo trovo e gli racconto la storia. E lui mi risponde: ah, ma guardi, lei è stato un cittadino modello, ma se mi chiamava la multa la facevamo togliere. Questo è ancora peggio, la discrezionalità nella discrezionalità. Non lo so cosa dirle davvero, è veramente, purtroppo è una buona... come devo dire, storia che parafrasa l'Italia, cioè la discrezionalità nel mettere si aggiunge la discrezionalità nel togliere. Ma che razza di risposte per una legittimità di un ordinamento che dovrebbe parlare chiaro, con norme semplici e soprattutto che dovrebbe essere uguali per tutti, non a seconda di chi telefona, non telefona o dei partiti che sono in consiglio comunale. Giuseppe da Torino invece che esperienza ha avuto? Sì, salve, ciao Giannino. Salve. Premetto che io sono cittadino onorario del Comune di Torino. Allora, sì. Io vivo nel pieno centro storico del Comune di Torino. Ti mandano delle bollette per pagare i rifiuti urbani per l'immondizia. Certo. Solo che noi quando eravamo qui i primi tempi, i cassonetti dell'immondizia erano tutti dislocati nella zona del centro e si poteva gettare l'immondizia. Adesso li hanno tolti per motivi di decorosità, perché danno fastidio ai turisti. Allora la gente ha l'abitudine di mettere l'immondizia, specialmente gli anziani che non possono camminare, nei cestini. Hanno messo dei cartelli e c'è una tax force di vigili urbani che li aspetta e cerca di beccarli proprio per fare i verbali su questo motivo qua. Ma io non capisco, cioè se paga un servizio deve avere anche la comodità del servizio. Non capisco perché per decorosità hanno tolto il cassone nel pieno centro di Torino. Infatti poi normalmente sono costretti a mandare altra gente a pulire per decorosità, perché la gente li lascia per strada. Va bene, grazie anche a Giuseppe. Luca, alla fine, Luca Lucchesini, brevissimamente, si paga alla fine, è inutile. Ma alla fine si paga, sì, però come dire, almeno sensibilizziamo l'opinione pubblica. Lei prima ha citato Pareto, mancava di citare Buchanan, perché qui la realtà è che abbiamo le volpi a guardia del pollaio. Lo so, ma poi ci dicono che siamo minoritari, iperliberisti, anarcoidi. Qua semplicemente tentiamo di essere legalitari. Va bene, continuate su Radio 24, appuntamento con me a domani.